A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Fede e Camorra, riti di potere e preti di denuncia, obelischi costruiti coi soldi del pizzo e benedetti per la festa del paese, ma anche inchieste partite con denunce dall'altare. Da sempre c'è odore di incenso intorno ai vecchi e nuovi padrini, ma stavolta i simboli cominciano a cadere, proprio come il giglio insuperabile, l'imponente torre di legno e cartapesta sequestrato e distrutto nel quartiere napoletano di Barra. E da qui, dai vicoli stretti di un rione popolare, parte questa puntata di A ciascuno il suo, dentro i riti della Camorra, ma anche dentro le crepe del feudo casalese nella chiesa di Casa Pesenna. Faceva riferimento a un malessere nel paese a riguardo di nuove forme di un po' ambigue di organizzazione che facevano soffrire di nuovo alcune persone. La sofferenza denunciata da Don Vittorio durante l'omelia è la ripresa delle estorsioni qui a Casa Pesenna, comune del Casertano, tutt'uno con Casal di Principe. I commercianti qui pagavano prima e pagano anche ora il pizzo, in questo comune, nel pieno feudo dei casalesi. Migliaia di euro di tangenti, percentuale fissa su appalti e guadagni. Ma ora, a differenza di un po' di tempo fa, di prima ad esempio che fosse arrestato il superboss Michele Zagaria, ora gli imprenditori iniziano a raccontare come ha fatto il titolare di una ditta edile con Don Vittorio, che ha poi tuonato dall'altare che questo paese non cambierà mai e ha parlato con i magistrati. Così hanno fatto pure le vittime del racket. Per la prima volta hanno confermato nomi e accordi, facendo partire gli arresti voluti dal PM dell'antimafia di Napoli, Catello Maresca. In generale si tratta sicuramente di una novità importante. La simbologia, diciamo, anche religiosa, che in alcuni territori assume delle connotazioni particolari, come anche in terra di Camorra, e si pensi ad esempio alle varie effigi religiose che troviamo ogni qualvolta, diciamo, si arresta qualche camorrista, si pensi all'arresto di Zagaria, all'utilizzo, diciamo, dell'immagine della Madonna in cui era installato una telecamera che serviva poi ad inquadrare la strada di accesso al bunker, ma diciamo si pensi a tutti i libri sulla religione che si trovano ogni qualvolta facciamo irruzione in qualche casa. Dicevo, questa simbologia è sempre stata presente, ed il fatto che oggi abbia cambiato in un certo qual senso significato, cioè sia diventata da situazione che poteva essere utilizzata dai camorristi anche per farsi più potenti o per giustificare una parte dei loro comportamenti, ad un rifugio invece per le vittime, è un momento sicuramente importante, così come anche l'espressione e le espressioni che poi i rappresentanti della Chiesa hanno sono cambiate. Forse non è un caso che in questa vicenda specifica la denuncia sia partita da un parroco che non è però del territorio, che non è del posto. Non lo so se si tratti, diciamo, di una casualità fortunata o anche di un momento, diciamo, fortunato, perché sicuramente dopo una serie di interventi si respira un'aria diversa. Ci sono stati appunto degli arresti importanti contro i casalesi, forse quello più noto, più eclatante, fu proprio la cattura il 7 dicembre dell'anno scorso di Michele Zagaria, che per di più non si era mai mosso, come sempre avviene, dal suo territorio. Tutto questo però, e anche queste indagini sembrano confermarlo, non ha affatto ridotto anche la pressione estorsiva sugli imprenditori, sulla popolazione di quella zona. Anzi, forse, è la lettura di molti, proprio per l'alto numero di affiliati che sono in carcere, le richieste di pizzo sono quasi aumentate. Io questa lettura non la condivido. Credo che si possa parlare di una continuazione, diciamo, delle attività che erano state messe in piedi. Questo è anche naturale, perché purtroppo Uno di quelli arrestati era uscito dal carcere da sette giorni, otto giorni. Purtroppo, probabilmente, diciamo, il carcere in determinati frangenti è addirittura criminogeno da questo punto di vista, perché gli consente di tenere contatti all'interno con quelli che erano i loro alleati fuori o addirittura gli affiliati dello stesso clan. Quindi chi esce torna a fare il lavoro di quello che è stato arrestato poco prima. Lei prima ricordava alcuni casi anche simbolici di fusione tra, potremmo dire, camorra e fede, per non parlare di tutti i tributi che anche alle persone arrestate vengono ostentati con la creazione proprio di queste edicole votive. Voi come li leggete? Cioè, nel senso che sono ulteriori segni di un codice che è condiviso con le persone del posto, marca il controllo del territorio? Io credo di sì, perciò prima parlavo di simbologia, una vera e propria, diciamo, simbologia anche religiosa, che poi è una simbologia che anche in maniera laica loro esprimono attraverso, per esempio, l'abbigliamento, attraverso le macchine importanti e potenti, attraverso l'ostentazione della ricchezza. Sotto il profilo religioso loro sono portati a manifestarsi come vicini, diciamo, alla religione, perché da sempre le persone potenti hanno bisogno un po' di una copertura o comunque del fatto di non essere contro quello che poi è la credenza popolare. Oh, allora, guardate come sono belli i padri rossi. Volete fare un applauso ai padri? Allora, per il giorno più significativo di Barra, Unica Fede, omaggio al padrino Antonio Cuccaro. Le parole e i gesti in certe zone sono un messaggio continuo per quello che dicono esplicitamente e per quello che lasciano sottinteso nel codice comune e condiviso. I gesti come l'omaggio al boss nella festa del paese che tutti sanno leggere, ma altrettanto tutti sanno capire e cogliere la portata di quei richiami scanditi dal pulpito dell'altare da un giovane parroco, Don Vittorio Comerlato, spedito dal Veneto in terra di lavoro a Casa Pesenna e divenuto ben presto un punto di riferimento per tanti, anche per la sua capacità di dire che questo paese non cambierà mai. Chi ascoltava ha capito. È capitato più volte in questi ultimi mesi, no? Di intervenire dall'altare e fare lanciare dei moniti al paese per la crescita morale, spirituale e civica della popolazione. Ci è capitato più volte con il parroco di fare degli interventi, di esortare le persone a riprendere possesso della propria libertà e di cominciare a reagire al male, cominciando dal proprio piccolo e poi anche arrivando ad opporsi a forme di violenza che potevano capitare. E non è una frase pessimistica considerata nel contesto. Si diceva: se noi non comprendiamo che il cambiamento di un paese, di una cultura, l'elevazione di una cultura non dipende da un salvatore esterno, da un'istituzione che dal di fuori viene a sanarti, ma dipende da piccole scelte che quotidianamente si fanno nella professione, nei rapporti familiari, quindi il problema dei rifiuti. Se non si comincia da queste cose piccole e anche dalla ferma opposizione a qualsiasi forma di privilegio, no? E quindi anche di violenza, allora questo paese non cambierà mai. Si faceva riferimento a un malessere nel paese. Noi siamo in piazza, la chiesa è una, il paese è piccolo, quindi è come se fossimo l'antenna del paese, un malessere che si sentiva in paese a riguardo di nuove forme di un po' ambigue di organizzazione che facevano soffrire di nuovo alcune persone, per cui ci siamo permessi di richiamare l'attenzione sul dovere invece di una scelta morale positiva e decisa e cominciare con il coraggio di dire no. Possiamo riscattarci da questa coltre di brutta fama, anche meritata tutto sommato, che l'opinione pubblica ha steso su di noi. Sì. Era un motivo per risvegliare la gente, per dire noi siamo con voi, svegliatevi, si può vivere liberi. Dico a loro in maniera un po' paradossale: guardate, non crediate che la libertà è un diritto, nessuno ve la dà, la libertà bisogna conquistarsela, è un dovere della coscienza di ogni uomo liberarsi da qualsiasi forma di condizionamento. Quindi l'invito, il monito era molto generico, chiaramente per chi vive in questo contesto assume anche un significato più specifico, no? Quando quella la torre più alta delle case è caduta, qualcuno ha applaudito, qualche altro fischiato. Quando quella torre di legno e cartapesta è stata abbattuta, per questo quartiere napoletano è stato un po' come quando le rivoluzioni decapitano le statue dei regimi. Siamo a Barra, popoloso rione ai piedi del Vesuvio, dove la camorra da anni si ammanta anche dei simboli della tradizione. Quell'obelisco, infatti, era diventato la prova concreta del pizzo imposto dal clan Cuccaro ai commercianti e mascherato dietro l'acquisto di materiali per il Giglio. Pure un pentito ne ha parlato, così, dopo queste rivelazioni e dopo le risse, in un'altra festa analoga a Nola, intorno all'insuperabile, sono scattati prima i sigilli, poi l'ordine di abbattimento. Si era ipotizzata perfino la sospensione della festa, poi garantita invece con ordine prefettizio, perché in origine è una festa popolare, anche se la camorra se ne appropria, riflette il PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, Catello Maresca. Io credo che sia fondamentale, cioè fondamentale come gli arresti, fondamentale come i sequestri dei beni. Sono quei messaggi che valgono tantissimo e valgono a far comprendere alla gente anche la forza dello Stato, perché purtroppo quelli che sono poi spesso vittime, no, dei camorristi lo fanno perché temono più il camorrista che non lo Stato. Quindi il fatto che lo Stato riesca a mostrare i muscoli anche in queste cose, cioè a far capire che comunque questi comportamenti di ostentazione, spesso sfrenata anche fuori luogo, non sono più consentiti. Secondo lei, in situazioni che possono essere anche di alcune realtà territoriali particolari, come quella di Nola o quella di Barra, laddove è necessario, è giusto anche arrivare a vietare delle feste di questo tipo, se sono delle riproduzioni di schemi camorristici? Se si dovessero ridurre solo a questo, perdendo tutto il resto del significato, si potrebbe arrivare anche a forme estreme di questo tipo, però io credo anche tanto alle tradizioni popolari e al recupero della tradizione popolare e di quel che poi significa per la parte della cittadinanza buona. Quindi io non penso che queste feste vengano utilizzate dai camorristi per mostrare la loro forza, ma nascono sane, e quindi va recuperato il valore vero, diciamo, eticamente sano di questa festa. Però forse non ci sono dei casi in cui, come dire, a mali estremi, estremi rimedi? Io preferisco, diciamo, vietare la partecipazione al clan, oppure, come è avvenuto anche per il recente passato, vietare o indirizzare il percorso, no, di alcune processioni religiose in alcune strade piuttosto che in altre, per dimostrare che lo Stato ha la possibilità di controllare. Il divieto assoluto e la sanzione, quando colpisce indiscriminatamente, può essere anche letto male dalla cittadinanza. Quando non si riesce a intervenire chirurgicamente si abolisce tutto. Quindi non io di fronte a soluzioni estreme cerco di essere sempre cauto. Come si può fare una cernita? Tornando al discorso di Barra, il simbolo che poi era questo giglio del capoclan è stato smantellato, è stato sequestrato, gli è stato vietato poi di sfilare. Messaggio importante, perché la festa si è fatta, ma si è fatta senza la parte negativa. Per tornare alle processioni religiose, quelle soste insopportabili che prima caratterizzavano alcune sfilate di santi patroni in alcune cittadine dell'Interland napoletano, soste davanti in omaggio davanti alle case del boss, sono state evitate, cambiando strada, prendendo, diciamo, altre destinazioni e recuperando quello che è il valore autentico poi della festa o della processione religiosa. Da questo punto di vista, voi avete notato che anche la collaborazione da parte delle autorità religiose in qualche modo è aumentata, è forte? Com'è? Credo che sia rispecchi poi l'evoluzione dei tempi, e io credo che da qualche anno a questa parte i cittadini, come i rappresentanti della Chiesa, vedano molto più più intensa l'attività sia delle forze dell'ordine sia della magistratura e quindi la presenza dello Stato. Per ritornare alla Casa Pesenna e alla zona proprio dei casalesi, in questo momento secondo voi ecco che tipo di situazione c'è? Come ho avuto modo di dire anche all'indomani della cattura di Michele Zagaria, utilizzo diciamo anche oggi questa frase, cioè che in questo momento lo Stato è passato in vantaggio. Sto constatando con felicità, direi, che comunque la guardia viene mantenuta alta. Una curiosità, in qualche modo è arrivata l'eco anche nelle zone dei casalesi dei segnali di ripresa della faida invece di Scampia o non sono dinamiche, ambienti che non hanno punti di contatto? Se ci sono non le abbiamo assolutamente rilevate. In mezzo alle folle che seguono e festeggiano i gigli, i boss talora sono stati omaggiati da paranze e cullatori, le braccia cioè che trasportano questi imponenti obelischi con prolungate pause sotto i loro balconi. Talvolta, come l'anno scorso, loro stessi, i padrini, si sono fatti largo tra la gente a bordo di una Rolls bianca distribuendo baci e promesse. Tutta esibizione di forza, come quando le risse riproducono le geografie delle alleanze. È qui che la tradizione sconfina nella camorra e la festa in un rituale di potere. Ma a pochi chilometri di distanza può capitare anche che attraverso l'opera di una parrocchia e di un giovane sacerdote si apra pure un varco nei silenzi omertosi di un paese come Casa Pesenna, dove gli imprenditori hanno cominciato a riferire del pizzo subito e dove, dopo le catture eccellenti, dei cambiamenti sono iniziati, ammette con fiducia Don Vittorio. Abbiamo avuto notevolissimi e calorosi consensi della gente, il più delle volte in privato, però la gente è contenta quando qualcuno ha il coraggio di, coraggio è una parola grossa, ha la franchezza di esortarla a cose belle e ha una speranza di cose positive per il futuro, che è un po' scuro il futuro. Sono avvenuti dei fatti con delle catture importanti come quella anche di Zagaria. Mi chiedo se in qualche modo avete recepito anche a partire da questo un cambiamento da parte della comunità. È indubbio questo cambiamento, questa evoluzione lo si vede dal modo di pensare, lo sguardo libero, la franchezza nel parlare, il desiderio di riscatto, sono tutte cose belle e non le nascondo che quando ho notizia di persone che la giustizia deve punire perché sono ritenute colpevoli, il mio cuore piange ed è come se fosse quasi un fallimento, nessuna connivenza, nessuna indulgenza fuori luogo, è proprio un senso di affetto, di vicinanza e di solidarietà con le persone. E forse per chi come lei arriva anche da una terra altra, lei proviene dal Veneto, forse a maggior ragione diciamo questo lo avverte ancor di più. Lei una volta aveva parlato, se non ricordo male, aveva definito questa la sua zona anche una terra maledetta. La riflessione era su un brano della scrittura che parlava di terra maledetta perché ferita dal peccato. Allora io ho applicato questo al momento contingente di grande imbarazzo, disorientamento, quale era la situazione del paese qualche mese fa. A ciascuno il suo, termina qui. Vi ricordo che potete riascoltare questa e tutte le altre puntate dal sito radio24.it. Ci trovate sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog Storiacce. Su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, al prossimo weekend.